ci sto provando. Sono sicuro ci sto riuscendo, ma il fuoco dentro me mi consuma, mi rende debole. Una lotta interminabile, ma certo so, se continuerò a provare e riprovare solo per te. Adesso sta ricominciando la debolezza che mi sta uccidendo. Il male dentro me ed il buono sa dove, quello che voglio essere, ma pregherò, continuerò a chiedere una forza che no. Solo il mare, il fuoco, il vento nella mia volontà. Oddio mio, spero finirà questo desiderio e che non tornerà, che non tornerà. Ed è lieve, lento, lento sento già respiro piano piano si libera. La sensazione che è sospinta dentro me da una forza che desiderio è che non tornerà, e che non tornerà. Ed è lieve, lento, lento sento già il mio respiro piano piano si libera. La sensazione che è sospinta dentro me da una forza che non.